Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Atene, 5 aprile 1896. Nello stadio Panathinaikos, di fronte a 70.000 spettatori, va in scena la cerimonia d'apertura della prima Olimpiade dell'era moderna. Da due giorni in Italia è possibile acquistare un giornale all'ora verde, come quello che probabilmente avete acquistato stamattina in edicola, e che farà della narrazione delle imprese sportive la propria missione, con tutt'altro colore, il rosa. Stiamo parlando della Gazzetta dello Sport. Intanto però ad Atene è il barone francese Pierre de Coubertin il fautore della riaccensione del sacro fuoco di Olimpia. E insieme a quel braciere si ravvivano gli antichi miti della Grecia dell'età classica. E uno invece, del tutto nuovo, nasce proprio lungo le strade di Atene, il mito della maratona. Sì, perché la sfida più emozionante ed estrema, quella lungo i 42 km e 195 metri, la maratona appunto, ben poco ha a che fare con l'antica battaglia vinta dagli ateniesi contro i persiani nel 490 a.C. e col leggendario messaggero Filippide. Ben poca realtà, tanta fantasia e una bella spruzzata di mitologia, infatti alla radice di uno degli archetipi fondanti dell'olimpismo moderno. Ne parliamo oggi col primo dei nostri ospiti, giornalista della Gazzetta dello Sport, presidente della Fondazione Candido Cannavò e storico del movimento olimpico. Elio Trifari, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Benvenuto, grazie a voi dell'occasione che mi offrite. Allora Elio, come dicevamo, mito e verità si sovrappongono se parliamo di maratona e della gara di maratona. Partiamo però da un dato certo, la celebre battaglia del 10 agosto del 490 a.C. Diciamo che la battaglia che ha respinto l'assalto dei persiani con le sole forze di Atene, e qui c'entrerà anche il personaggio che poi dà origine al mito della maratona. La battaglia è vinta dal solo Milziade per Atene, ma quel che è importante è che alla battaglia non partecipano gli Spartani, e qui si capisce il ruolo di questo personaggio che è stato a lungo equivocato e che poi è all'origine del mito della maratona. Parliamo ovviamente dell'altrettanto noto Filippide. Chi era costui, mi viene da chiederti? In realtà, dunque, allora cominciamo da quello che sembra la leggenda. La leggenda dice che un messaggero partì dalla piana di Maratona. Maratona significa campo di finocchi, quindi qualcosa di non molto poetico, ma comunque invece ha assunto un significato clamorosamente diverso, per annunciare la vittoria agli ateniesi, e che stremato all'arrivo disse: gioite, abbiamo vinto, e spirò. Questa è la leggenda. Questa leggenda viene riportata esattamente in questi termini da uno scrittore di sei secoli dopo, ma non viene riportata da Erodoto, che era quasi contemporaneo e che scriveva le sue bellissime storie della Grecia antica, che racconta tutta un'altra vicenda, e qui nasce l'equivoco. Quindi, se capisco bene, Filippide è un intruso nel mito di Maratona. Esatto, perché poi Erodoto lo nomina Filippide nelle sue cronache della Maratona, ma lo nomina per tutto un altro motivo, perché lo nomina come il personaggio che il generale a capo dell'esercito ateniese, Milziade, mandò a Sparta per chiedere aiuto prima della battaglia. E gli Spartani dissero no, perché c'era il plenilunio, non potevano impegnarsi in una battaglia, insomma usarono delle scuse. Questo disgraziato, che aveva fatto 240 chilometri, tornò indietro di altri 240 e riportò la notizia che gli Spartani non avrebbero partecipato. Milziade attaccò lo stesso e vinse, ma non morì. Né Erodoto cita questo episodio, che chiaramente avrebbe citato se fosse stato vero, né lo mette in relazione con l'annuncio agli ateniesi della vittoria. Tutto questo nasce dopo, diventa un'elucubrazione di Plutarco, altri scrittori, finché Luciano di Samosata inventa il personaggio che sarebbe morto annunciando la vittoria. In realtà ci sono dei passi che citano un altro corridore che aveva in effetti annunciato la vittoria degli ateniesi, agli ateniesi ad Atene, e che era morto nell'annunciarlo, ma aveva fatto solo tra virgolette 30-40 chilometri. Ma così di corsa, con tale intensità da morire all'annuncio, che si chiamava forse Tersippo, forse Eucle, ma non Filippide. Quindi si confondono due personaggi, due storie completamente diverse, in un passaggio di uno scrittore tardo greco che entusiasma un filologo che induce Le Coubertin a inventare questa gara. Spiegami un po', Elio, non fosse abbastanza intricata la vicenda, ci si infila pure un filologo? Allora, prima diciamo che come nasce la maratona in epoca moderna? Non si correva una gara così lunga nel tutto il programma atletico in tutto il mondo a quell'epoca, parliamo del 1896. Un filologo amico di De Coubertin, che si chiamava Michel Bréal, legge questo brano di uno scrittore tardo greco, uno scrittore nato in Siria, Luciano di Samosata, e si entusiasma al punto da proporre a De Coubertin di ripristinare la gara in maratone in quanto imitazione di questo straordinario personaggio che aveva annunciato agli ateniesi la vittoria e il fatto che Dario, re dei persiani, era stato fermato a Maratona. Ah, ecco quindi come nascono la leggenda e il mito. Quel che è sicuro è che nella Grecia classica però esistevano gli emerodromi, come Filippide o Filippide, cioè messaggeri che percorrevano significative distanze a piedi, giusto? Esistevano ed erano personaggi che correvano solo di giorno, non di notte, facevano anche 170 km al giorno secondo gli scrittori dell'epoca, poi qui si può esagerare un po' oppure no, ma comunque erano personaggi che in pratica facevano da staffetta annuncio o da staffetta messaggeri. E quindi questi personaggi sono esistiti. Esistito sicuramente un personaggio che ha detto agli ateniesi che la battaglia era stata vinta, è morto o non è morto, e questo è oggetto di un po' leggenda e un po' esagerazione di Plutarco, che è il primo che lo racconta. E poi diventa un personaggio che si spande nella letteratura greca del tardo periodo e arriva poi al nostro filologo che lo riscopre. Però esistevano di certo ed era il modo unico, reale per annunciare. Quando si rifà la gara di maratona si tenta addirittura di rifarla sullo stesso percorso del Filippide che non esisteva o comunque dell'emerodromo che aveva fatto l'impresa ed era poi ispirato. In realtà non si fa la stessa gara perché si deve correre su una strada e non sulle colline come aveva fatto probabilmente questo qui, e si fanno questi circa 40 km che poi verranno codificati come lunghezza soltanto a Londra nel 1908, quando diventano 42 km e 195 metri perché si parte dal castello di Windsor e si arriva allo stadio. E lì arriva primo, tra virgolette, Donando Pietri, ma questa è veramente un'altra storia. Beh, Elio, sono bastati 120 anni alla maratona per diventare una gara leggendaria. E non è certo l'unica sfida che De Coubertin ammanta di mito, ma che di fatto si inventa di sana pianta. Si inventa degli sport, inventa il pentathlon moderno, per esempio, che è uno sport che inventa assolutamente lui nel 1912 a Stoccolma. Inventa la storia di un soldato che fugge a cavallo, poi cade e combatte con la spada, poi si butta in un fiume e nuota, poi corre e poi infine supera gli avversari, insomma cinque prove che diventano le prove del pentathlon moderno sulla similitudine di un personaggio mai esistito, ma che un personaggio che fa nascere una disciplina che c'è ancora oggi. Bel costruttore di miti e gare a tavolino quindi il nostro barone. Costruttori al punto che quando si deve fare un poema nel 1912 sulle Olimpiadi non partecipa nessuno, lui partecipa sotto falso nome e vince anche il premio. Era proprio un totalmente immerso nella sua creatura, diciamo. Elio Trifari, grazie davvero per averci riportato indietro nel tempo fino alle radici del mito della maratona e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e buon lavoro, grazie. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui ad Olimpia. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Grandi storie anche quest'ultima settimana di luglio al Falco e il Gabbiano. Entriamo in clima olimpico con tre grandi storie di sport. Eugenio Monti dallo sci al bob e un grande gesto di fair play. Il riscatto del popolo aborigeno attraverso l'impresa di Katie Freeman. e Cornelia Ender e tutte le vittime del doping di Stato in Germania Est. Poi una vita avventurosa fatta di truffe ed evasioni, Stephen J. Russell. E poi una figura controversa del Novecento italiano, Curzio Malaparte, in bilico tra fascismo e antifascismo. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Olimpia, miti e verità dello sport. Ammantata nel mito, nella leggenda, per alcuni aspetti nell'invenzione vera e propria, la nascita della moderna gara della maratona, che entra nel programma olimpico nella prima edizione dei Giochi Moderni ad Atene nel 1896, per arrivare poi alla fatidica lunghezza di 42 km e 195 metri solo 12 anni dopo, nel 1908, a Londra. Ben più reale e concreto invece il profilo del primo vincitore della maratona, il greco Spyridon Lewis, un umile venditore d'acqua che a 23 anni trionfa di fronte alle migliaia di spettatori dello stadio Panathinaikos. E lui è a iscrivere per primo il nome nell'albo d'oro a 5 cerchi. Ma chi era Spyridon Lewis e cosa accadde in quell'epica prima maratona della storia il 10 aprile del 1896? Proviamo a ricostruirlo con l'aiuto del nostro ospite, giornalista della Gazzetta dello Sport, storico del mezzofondo, della maratona e profondo conoscitore del mondo olimpico. Valerio Piccioni, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, un saluto. Allora Valerio, abbiamo scoperto che il mito della maratona moderna nacque grazie addirittura al filologo francese Michel Breel, che non solo ispirò De Coubertin, ma ideò e mise in palio anche un trofeo per il primo vincitore della maratona olimpica, vero? Sì, in realtà questo filologo offrì una coppa d'argento che tra l'altro è stata aggiudicata all'asta nel 2012, proprio qualche mese prima delle Olimpiadi di Londra, e da lì partì, o meglio ripartì, se vogliamo, questa lunga e fenomenale storia di maratona che poi è arrivata ai giorni nostri, ma che ha avuto in Spyridon Lewis certamente un suo interprete fantastico, se non altro perché fu di fatto il primo ad un certo livello. Tra l'altro, la partecipazione alla gara di Spyridon Lewis fu tutt'altro che scontata, se ho ben capito. Si fece una sorta di eliminatoria, c'era una grande passione, una grande attesa intorno a quella gara. Ecco, questa è una cosa che in effetti impressiona, cioè la maratona che non aveva avuto in realtà una sua gara simile nelle Olimpiadi dell'antichità, no? Che si erano corse su distanze ovviamente molto più abbordabili, le cosiddette distanze della pista, tra virgolette, però scatenò un tale entusiasmo tra i greci che si arrivò a un'eliminatoria molto seguita anche per i tempi, e si disse che, diciamo, chi otteneva un tempo limite, diciamo, chi scendeva sotto una barriera avrebbe conquistato il diritto di rappresentare la Grecia. Spyridon non vinse, però evidentemente ci prese gusto. L'ultimo mese, quello che appunto ci separava dalle eliminatorie, deve essersi allenato bene, e in effetti si presentò forte dei chilometri accumulati nel suo lavoro, che era a quanto sembra quello di venditore di acqua, un'acqua speciale che appunto vendeva tra Atene e Marussi, questo villaggio dove viveva, un villaggio che oggi ospita peraltro lo stadio olimpico che porta proprio il suo nome, il nome di Spyridon, Spyros Lewis, e quindi, diciamo, vinse un po' annientando la resistenza di tutta una serie di atleti che erano invece abituati a correre in pista gli 800 e i 1500 metri. La maratona era il viaggio in una terra di nessuno. Successo quello di Lewis, anch'esso ammantato poi di miti tutti da verificare, Naturalmente poi tutto questo ha alimentato una serie di leggende, il bicchiere di vino lungo il tragitto, il viaggio in costume, il principe e il re che scesero addirittura dagli spalti dello stadio Panathinaico per fare gli ultimi metri con lui. Insomma, quella fu veramente l'apoteosi, io credo, della storia greca, no? Una storia greca che ritornava, che riaffiorava, e quindi certamente fu un'emozione grandissima. Le immagini che sono arrivate ai giorni nostri di quel 1896 ci dicono di uno stadio, il Panathinaico, dove poi Stefano Baldini avrebbe vinto l'oro nel 2004 e avrebbe vinto l'oro anche un arciere italiano nello stesso impianto e nella stessa Olimpiade, ci dicono veramente di uno stadio, si direbbe oggi tutto esaurito, ma pieno di entusiasmo, che avesse potuto, sarebbe sceso per accompagnare come un solo uomo Spiridon al traguardo. Ecco Valerio, ti chiedo ancora, come cambiò la vita di Spiridon dopo quella storica vittoria? Si perse un po', diciamo, e però rimase con questo titolo che in effetti portò fino alla fine. Diciamo che avrebbe potuto, e magari in quel momento avrebbe creduto di poter diventare ricco grazie a quel successo, ma ovviamente l'Olimpiade de Coubertiniana era un'Olimpiade dove vigeva il dilettantismo, il divieto di percepire qualsiasi premio, quindi tutto finì abbastanza velocemente da questo punto di vista, ma rimase il mito che lo portò per esempio ospite alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, insomma quando naturalmente non aveva più l'età per correre, e però la sua fama è una fama che è rimasta ovunque in Grecia, non solo nel Museo di Maratona che si può visitare appunto proprio alla partenza della gara, ma anche in tante statue che noi vediamo, in tanti ricordi. Io per esempio, se si fa la strada che porta da Maratona ad Atene, se ne incontra una, proprio un corridore molto slanciato, direi più un velocista per la verità che un maratoneta, ma insomma il suo mito, diciamo, questa giornata insomma di grande orgoglio greco è rimasta per molti anni. E non fu l'unico Luis dei campioni a entrare nel mito in quei giochi di Atene 1896, vero? Quell'Olimpiade fu veramente qualcosa di romanzato, di letterario. Non dimentichiamo che fu anche l'Olimpiade di questa prima maratoneta donna che appartiene al mistero, Stamata Reviti, che pare si fosse presentata proprio alla partenza di Maratona, fosse stata bloccata dal sindaco e dai soldati, ma poi avrebbe comunque voluto andare avanti fino al punto di riuscire a correre, seppure da sola e non in gara, questi famosi 40 chilometri da Maratona ed Atene. Insomma, ecco, veramente siamo nel mito dello sport, siamo in quelle pagine dove probabilmente non sai distinguere tra verità e leggenda, ma che fanno poi la forza di una storia, la popolarità, devo dire, di una gara, ripeto, che a un certo punto ha rotto gli argini ed è diventata parte del linguaggio sportivo di tutto il mondo e di tanta gente. Ancora una domanda, Valerio. C'è un filo rosso, secondo te, che ancora oggi unisce l'impresa di Spiridon Luis ai campioni della maratona contemporanea? Beh, diciamo, io credo questo, che sicuramente oggi la maratona è diventata, per come si prepara, voglio dire, per come è entrata nelle abitudini di tutti i giorni, qualcosa di molto diverso e di molto lontano da allora. Però se ci pensate, per esempio, dentro la maratona ci sono dei momenti, delle situazioni che poi rivivono e forse sono ancora le stesse. C'era un grande allenatore italiano, purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che si chiamava Oscar Barletta, che aveva scelto proprio una parola per descrivere il momento in cui intorno al 30° chilometro i maratoneti incontrano una sorta di muro, finisce l'entusiasmo, il traguardo è ancora lontano, le gambe diventano dure, e allora lui gli aveva messo un nome a questo momento, l'aveva chiamato il momento della strega. Ebbene, io credo che ancora oggi chi fa la maratona, come Spiridon Luis a quel tempo, o come magari più i suoi avversari, incontrano la strega, incontrano quel muro da battere. Voglio dire che ancora quel romanzo ha delle caratteristiche, un pezzo di trama che è lo stesso. Valerio Piccioni, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, a presto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.